Maestro, maestro, yo, yo, funziona yo. Tutto, maestro, funziona tutto. Pronto, Sassa. La. Allora, se siete all'ascolto, stiamo per finalmente andare in diretta, pazzi. Allora, quasi diretta, quasi diretta. Allora, benvenuti, benvenuti a tutti e tutte quante all'ascolto. Buonasera, in questa rocambolesca all'ascolto. Entità da ogni galassia, pianeta e luogo da cui ci state ascoltando. Siamo felicissimi, finalmente, dopo annosi problemi, con 45-50 minuti di ritardo, ce l'abbiamo fatta. Allora, l'importante è esserci, sì. non quando. Ma perché poi il tempo è una cosa relativa, ne parleremo abbondantemente durante questa puntata, la stiamo facendo praticamente apposta, questo infatti era un inizio previsto. Spoiler. Allora, avete già sentito tutte le voci, inizio io. Intanto, allora, a tutte le persone che ci stanno ancora, nonostante tutto ascoltando, un grande saluto. Scrivete... Un abbraccio infinito, entità. Enorme. Resistenti attraverso con le galassie, ovunque. Ci potete contattare e scrivere, preferibilmente su direttawombat.vado.li oppure direttamente dal sito, se no su postawombat@insiberia.net, siamo in diretta. Questa è la prima puntata della nuova trasmissione che si chiama Lezioni Universali di Esistenza. Sì, prego. Restate attenti. Al mio fianco infatti c'è il maestro Ottani, 100 Ottani, che mi accompagnerà per tutte le puntate. Ciao maestro. Buonasera. Allora, vogliamo ricordare al maestro Ottani che stavamo parlando prima dei problemi tecnici di una certa questione sulla rapidità della trasmissione. Incisività e frizzantezza, il maestro. Il maestro è autodeterminato in tutto, anche sul suo tempo, e quindi ha deciso di fregarsene e andare così, sulla sua lunghezza d'onda lenta, lunga. Mi raccomando anche, titetatelo con la maiuscola. E insieme a me l'avete sentita anche Gegè, viva per questa e per la prossima puntata, perché faremo una puntata ogni 2 settimane e avremo spesso degli ospiti. Per questa volta c'è Gegè, grande, viva. Grazie per condividere con noi tutto questo disagio. Allora, maestro, annunciamo, sì, prego. Alzi la mano, ma ti posso vedere una, solo io. Una domanda a tutti voi. Perché pensate che questa trasmissione, questo programma, è iniziato con 50 minuti di ritardo. Chiediamocelo. Lo dice. Pensateci bene. Allora, annunciamo velocemente di cosa parleremo. Questa trasmissione è dedicata a ufologia, pseudoscienza, misteri, occultismo, magia, parapsicologia, quant'altro, giusto? Tutte cose inquadrabili nella causa del nostro ritardo. Sì? Ma tutte insieme? Possibilmente sì. Ok. Noi parleremo abbondantemente di tutto questo, però oggi in particolare ogni puntata avrà un titolo. Quello di oggi è Da dove veniamo? Infatti annunciamo velocemente il titolo, poi mettiamo un pezzaccio e iniziamo, maestro. Di cosa parleremo oggi? Da dove veniamo? Io personalmente da Conversano saluto tutti i concittadini. Un po' me l'aspettavo, posso dirlo? Come Roman Flotz. Maestro, di cosa parleremo oggi, dicevamo? Dicevamo che parleremo dal punto nello spazio-tempo da cui veniamo, ma come abbiamo appena anticipato, il tempo è una questione un po' più problematica. Sì. Ma il tempo e lo spazio non sono l'unica cosa? Potrebbero. Potrebbero. Allora, potrebbero, noi facciamo questa cosa, mettiamo un pezzaccio. Iniziamo poi, maestro, tu ci farai entrare un pochino nel tuo mondo. Ogni puntata parleremo di un argomento e faremo qualche cosa di sperimentale. Questa puntata avremo un grande esperimento. La prossima puntata parleremo di nuove rubriche di cui accenneremo. Abbiamo iniziato in ritardo, siamo molto emozionati. Mettiamo un pezzaccio e partiamo, via. Maestro, annuncialo gentilmente però, scusa, è vero. Che cosa... Andremo a parlare di Anunnaki. Sì, no, il pezzo. Sto dicendo il pezzo. Ah, stavo dicendo. Out of Space. Sì. Prodigy. Vai. Thank you. sì, sti cazzi, mangiamo la base, avanti tutta. Allora, grazie a chi ci sta scrivendo, ci state segnalando che i volumi erano un po' bassi, l'abbiamo continuate alzati. Continuate a scriverci e sì, a darci feedback, partecipate. La trasmissione in diretta, questo è il bello della diretta, il senso della diretta. Sì, siamo grandemente in diretta. Questa puntata, questa trasmissione andrà in onda una settimana ogni due, il primo e il terzo mercoledì del mese. Questo è il primo, dopo le due puntate pilota dell'anno scorso, assieme al maestro Tani, tanta aspettativa, insomma. Allora, abbiamo deciso di iniziare dall'inizio, maestro. Io ho nomi misteriosi qua davanti a me sulla scaletta che hai preparato. Iniziamo proprio dall'inizio, sì. Dall'inizio dell'inizio. Dall'inizio di tutto. Da tutto ciò che è stato prima dell'uomo, a questo punto si può dire. Prima del genere umano. Base appropriata. Tutti avremmo sentito parlare sicuramente di Nibiru. Tutti, tutte. Tu ci sei? Tutte. Io guarda, invoco tutte le sere per andare a dormire Nibiru. Un cavaliere dello zodiaco Nibiru. Ci avete provato. Nibiru è il decimo pianeta del nostro sistema solare. Shock. Shock, sì, iniziamo forte maestro. E cosa caratterizza questo decimo pianeta? Grazie Gigi. Allora, maestro, aspetta, poi capiamoci. Il silenzio in radio non è una buona cosa. I tempi. Ok. A proposito dei tempi e dello spazio-tempo. Non cambierò per voi. Non cambierà mai per voi. Neanche per voi radioascoltatroci che purtroppo potete sentire questi silenzi, ma d'altronde possono essere anche così morbidi. Incluso chi ci scrive che la puntualità è un valore borghese. Maestro, approvo anch'io. Il Nibiru, sì. Il decimo pianeta del sistema solare, se contiamo Plutone, che però a questo punto è stato effettivamente declassato a subpianeta. Chi l'ha declassato? Voglio nomi. Hai detto declassato? Vogliamo sapere chi, maestro. Chi l'ha declassato? E soprattutto l'ha fatta a buon diritto? Allora, c'è una comunità di scienziati che sentenzia per tutto il tempo e per tutto il corso della storia. Questi a un certo punto decidono che una cosa è un pianeta e che poi ad un certo punto invece non lo è più. E quindi non so, io... Noi siamo c'è molto qualcosa critici. Che non torna. C'è qualcosa che non torna, esatto. C'è qualcosa che vogliono nasconderci. Allora, maestro, diamo un filo sempre a tutto ciò. Sempre i cosiddetti hai poteri forti. Un nome come Nibiru, decimo pianeta. Nibiru, abbiamo decimo detto pianeta. Che ingiustificatamente se calcoliamo Plutone come il nono pianeta. Noi lo calcoliamo come il nono pianeta? A vostra discrezione. Sì. Ma noi chi? We watch the stars. Noi chi ti ha chiesto? Noi tutti che consideriamo i pianeti qualcosa di esistente. Nibiru in questo senso assomiglia molto di più a quelli che sono i giganti gassosi del nostro sistema allora, solare. Allora stiamo descrivendo il decimo pianeta dell'universo. Esatto. Allora noi non stiamo dell'universo, della nostra galassia, del sistema solare. Certo. Noi stiamo spiegando adesso che la comunità scientifica sta prendendo un abbaglio considerando essere 8/9 a seconda che si voglia o no accettare Plutone gli esseri pianeti del sistema solare, perché effettivamente ce n'è un decimo, un gigante gassoso dal nome Nibiru di cui adesso vi parleremo, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Prego maestro. Questo pianeta ha un'orbita particolarmente strana all'interno del nostro sistema solare. Infatti il suo periodo di rivoluzione è di 3600 anni. Ed è poco o tanto? Tanto. Perché considera che il periodo di rivoluzione della Terra appunto è di un anno. Quindi... Shock. Shock per alcuni, per altri ovvietà. E questo fa sì che questo pianeta Nibiru passi vicino alla porzione di sistema solare all'interno in cui c'è la Terra. E anche ovviamente i pianeti limitrofi, Venere, Marte, la fascia di asteroidi, la Luna, e che è un satellite, non un pianeta. Shock. Me la smetto. Shock. Quando passa vicino a questa porzione di sistema solare, ogni 3600 anni per l'appunto, succede qualcosa di sconvolgente. Ho una domanda. Prego, certo. È stata registrata nella storia qualche testimonianza di avvistamento del pianeta Nibiru negli anni passati? Interessante, vero? Come facciamo a dire che esiste Nibiru, maestro? Scusami. Il punto è non tanto dire se esiste o meno, ma cercare di capire a che punto della rivoluzione siamo. Secondo me no, ci sta di posso dire che secondo me la mia domanda era rilevante. Esistono delle testimonianze di questo Nibiru nella storia dei papiri? Certo che era una domanda rilevante, assolutamente. Piuttosto volevo sottolineare il fatto che siamo, come dire, non sappiamo effettivamente a quale punto di questa rivoluzione di 3600 anni siamo, e questo mio commento è collegato alla tua domanda. In che senso? Nel senso che se fossero passati esattamente 3600 anni da adesso, e quindi l'anno prossimo o quest'anno Nibiru passasse vicino al nostro pianeta, sì, come potremmo avere a livello storico dei documenti o delle fonti da questo punto di vista? Come per qualsiasi altro avvistamento che sta domando rispetto soprattutto al sistema solare. Cioè lui ti sta chiedendo: ma come puoi effettivamente dire che davvero c'è questo? Dico, è troppo lontano nel tempo. Questo voglio dire. È un po' troppo lontano, sarebbe un po' troppo lontano nel tempo in quel caso. Noi scegliamo quindi di crederci per fede, giusto? Sì. Sì. Momento di pausa, riflessione. La risposta è sì. Ok, allora, su Nibiru, cosa succede su Nibiru? La domanda da cui partiamo era: da dove veniamo? Ricordiamoci che questa è una trasmissione da un'ora, maestro. Da dove veniamo, certo. Noi non veniamo da Nibiru. Noi effettivamente siamo nati sulla Terra. Siamo cresciuti sulla Terra. Ci hanno coltivato sulla Terra. E raccontaci la genesi della specie umana, maestro. In che modo siamo collegati a Nibiru? Nibiru è un... questo pianeta che ospita una razza di extraterrestri. Di questi extraterrestri sono detti nella lingua antica dei Sumeri Anunnaki. Invece nella lingua ebraica sono detti o Elohim o Nephilim. In realtà è molto più corretto, sarebbe molto più corretto definirli Nephilim, ma questo lo vedremo in una prossima puntata. Molto bene, molto bene. Allora, abbiamo detto, c'è un decimo pianeta che si chiama Nibiru, che orbita ogni 3600 anni, fa una rivoluzione attorno al Sole, giusto? Esattamente. Sì. E ha una orbita piuttosto pronunciata a livello ellittico, nel senso che i fuochi di queste ellisse sono molto lontani tra di loro. È un ovalone. Va bene, e da lì provengono gli Anunnaki o Elohim, che dir si voglia. Esattamente. Noi sceglieremo la definizione di Anunnaki, antichi nella lingua dei Sumeri, da cui traiamo le fonti. Mm-hmm, molto bene. Quindi ci sono delle fonti. Ci sono delle fonti. Parliamo di queste fonti, maestro. Ci sono degli scritti antichi, ci sono delle tavolette di quelle scritte in lingua cuneiforme, ci sono dei geroglifici. Geroglifici ovviamente sumeri. Che non sono poi veri e propri geroglifici come si intendono per gli egiziani, sono più raffigurazioni. In questo caso si può parlare di vera e propria iconografia, e quindi rappresentazioni di epopee e racconti mitologici su dei supporti litici. Ci stiamo distraendo, maestro. Allora, tu ci stai raccontando che questi sumeri hanno testimonianze degli antichi astronauti, degli Anunnaki che hanno visitato la Terra, ma noi non vogliamo sapere delle testimonianze, vogliamo sapere le verità. Io non so dove prenderle, le verità. Hai sbagliato domanda, ma posso portarti delle storie. Molto bene. E sceglieremo la storia del decimo pianeta e degli Anunnaki, che quanto tempo fa sono venuti sulla Terra? Praticamente la storia narra che circa 445.000 anni fa, più o meno. 5.000. Circa in quell'arco di tempo, gli Anunnaki compiono, appunto, cioè Nibiru compie una delle sue rivoluzioni e arriva vicino alla Terra. Sì. Gli Anunnaki, sì, abitanti di Nibiru, scendono sulla Terra, o comunque iniziano ad analizzare la Terra come luogo papabile, mm-hmm, per estrarre un minerale di cui loro andavano ghiotti. Andavano ghiotti? Ghiotti, che... l'oro. Mm-hmm. L'oro. Cosa se ne facevano gli Anunnaki dell'oro? Lo mangiavano? No, non lo mangiavano affatto. Lo utilizzavano, a quanto si è capito, comunque a quanto è riuscito a interpretare Zecharia Sitchin, di mm-hmm. cui parleremo più avanti a lungo. No, a lungo. Non così a lungo. Cosa ha detto Zecharia Sitchin? Praticamente l'oro serviva agli Anunnaki per schermare la loro già fragile atmosfera. Ah. Praticamente l'atmosfera di Nibiru. Come si può usare l'oro per schermare un'atmosfera? Tipo, secondo me avevano fatto un bucone dell'ozono gigante e ci sparavano l'oro per rattopparlo, una cosa del genere. Una cosa del genere. Beh, ingegnoso. Ingegnoso. Ok, e avevano finito l'oro. E avevano bisogno di oro. Uh-huh. E sono riusciti a trovarlo. Un po' come gli spagnoli nel Nuovo Mondo. Bravissima, esattamente. E questa è un'analogia perfetta, calzante, perché si parla proprio di conquistadores in questo senso. Infatti, quando Nibiru, dobbiamo andare a concludere questo spaccato. Praticamente la terra, in quel momento, gli abitanti di Nibiru, quindi questi Anunnaki, trovano sulla terra svariati giacimenti di oro, uno principalmente nell'Oceano Pacifico all'inizio, a quanto pare. Sotto l'Oceano Pacifico. E che fanno, quindi? E iniziano a creare una colonia di estrazione. Mm-hmm. Sotto l'Oceano Pacifico? No, sulla superficie, che si estendeva fino a sotto. Mm-hmm. Ma sei una segata della tecnologia, certo, che ci avevano, no? E praticamente... non c'era la Pangea allora? Però sappiamo che era precisamente sotto... No, 445.000 anni fa non c'era ancora la Pangea. Cioè, non c'era, cioè era molto dopo la Pangea. Quindi noi abbiamo però capito che là sotto c'era questo giacimento e loro si sono stabiliti sulla Terra? Loro si sono stabiliti ad un certo punto con una colonia principalmente nell'Oceano Pacifico. E hanno iniziato sotto sopra, però scusa se insisto. Interessante. Io non so come fare. Cioè, non... su un'isola metti oppure sotto una mare. Sorta di, cioè, quel film di Steven Spielberg. Prova a pensare dove ad una... gli alieni vivono sotto l'acqua. Capito? Avevano le piattaforme petrolifere. Esatto, prova a pensare piattaforme. Volevo proprio dire questo, e prova a pensare a una piattaforma petrolifera, quello. Ok, quindi hanno sparato queste piattaforme sopra... Va bene, piattaforme sopra il Pacifico. E hanno iniziato ad estrarre dell'oro che poi mandavano su Nibiru. Che però dopo mandavano su Nibiru, comunque, scusa, certamente... nel momento in cui quello si avvicina alla Terra ci sta poco tempo, cioè ci hanno relativamente poco tempo. Sì, però loro a quanto pare hanno una tecnologia talmente avanzata che magari una settimana che possono anche, come dire, viaggiare da Nibiru alla Terra, anche se Nibiru non è proprio in quel punto. Ora non voglio mettere problemi, ma perché allora aspettare che fosse abbastanza vicino e non iniziare? Questo io non lo so. Certo. È una questione di carburante, secondo me, lì a quel punto. Che magari venire è facile, ma tornare risposta. È difficile. Questa è un'ottima risposta. Magari c'è un carburante solo per un viaggio, non andata e ritorno. È una questione di comodità, aspetti un attimo che arriva. Va bene, quindi l'oro del Pacifico l'hanno preso? L'hanno preso, però era una 4550 vena... Il famoso oro del Pacifico. L'oro del Pacifico, però a quanto pare era una vena non così... Florida, non così... Hanno sbagliato. No, non è che hanno sbagliato, era poco, semplicemente in quel punto, e hanno mandato una seconda spedizione e hanno trovato un altro giacimento d'oro massiccio nel centro dell'Africa. E hanno stabilito un'altra colonia mineraria lì. Il punto è che ora in questa storia ci sono dei nomi, ci sono delle divinità, in questo senso i Sumeri pensavano agli Anunnaki, dipingevano gli Anunnaki come delle divinità. E infatti qui adesso arriva il ganglio dove si unisce questa storia con l'origine della specie umana. Col fatto che ad un certo punto questi Anunnaki si rompono la minchia di essere dei manovali, fondamentalmente, di essere forza lavoro fisica, nel senso di scavare nelle miniere e di estrarre questo oro, e scelgono attraverso la loro superiore tecnologia a livello bioingegneristico di creare una... tipo ingegneria bio? È tipo ingegneria bio, esatto. C'è il certificato bio. Cioè il logo. Questo, attraverso un'operazione effettivamente di bioingegneria, riescono o comunque scelgono di creare una razza ibrido fondamentalmente tra quello che era l'Homo erectus e loro stessi. Allora, lasciamo un attimo in sospeso questa questione, che è interessantissima, perché tu stai parlando di un momento di commistione genetica fra gli Anunnaki del pianeta di cui mi scordo il nome, Nibiru, che era abbastanza vicino alla Terra, dopo aver estratto l'oro dal Pacifico e l'oro dall'Africa, avevano bisogno di forza lavoro e pimpano in qualche modo geneticamente la razza umana. Fanno degli esperimenti, fanno delle prove all'inizio, non riescono subito. E questo è il nostro secondo argomento di oggi, di cui parleremo subito dopo il prossimo pezzo. Maestro, che pezzo stiamo per mettere? Però maestro, annuncialo meglio di quello prima, gentilmente. Ora, soprattutto perché li stai scegliendo te. Ora ascoltiamo sì, Looking for Astronauts. Nemmeno il gruppo. The National. Che non si dica che al Wombat non si è professionali. Rieccoci in diretta. Di chi era questa canzone, maestro? Maestro, prego. The National. Rimetti bene il cavetto. The National. Sì. Cavetto. Tutto rotto. Eccoci. È tutto un pochino rotto questi oggi. Sono scusate. Gli Anunnaki che non sono contenti di come stiamo parlando. È di la nostra tecnologia. E ci stanno mandando le macumbe. Allora, grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo, a chi ci sta facendo notare tutti i problemi tecnici che abbiamo. Promettiamo intensamente di risolvere già dalla prossima puntata. Grazie anche a chi fa i complimenti al maestro, secondo me immeritati. Allora, questa è Radio Wombat, questa è Lezioni Universali d'Esistenza, una trasmissione molto sobria. Andrà in onda a partire da oggi, ogni primo e terzo mercoledì di ogni mese, sulle 13.59 AM oppure su radiowombat.net, mentre il maestro intanto risolve. Maestro. Allora, oggi Gigè è insieme a noi, cara Gigè. Che bello finalmente essere insieme. Che delirio, porca miseria. Allora, ci potete contattare e scrivere sul cellulare del maestro, sul cellulare mio, su quello di Gigè, oppure più facilmente su direttawombat.vado.li. Il nostro pad della diretta. Allora, dopo aver annunciato un attimo, oggi stiamo parlando, il titolo della puntata di oggi è Da dove veniamo? Abbiamo un po' parlato... stiamo parlando dell'origine della specie umana. Questo è il tema della puntata di oggi. Ne abbiamo parlato un attimino adesso. Andiamo. Il famoso anello mancante. E quello è il cuore, giusto maestro, di quello di cui stiamo per parlare adesso, che è il secondo e ultimo argomento di oggi, a seguito del quale faremo un bellissimo esperimento scientifico. Ottimi input tutti. Questa sorta è soddisfatto. Portaci nel tuo mondo, maestro. Siamo con te. Ci eravamo fermati a questa serie di esperimenti, no? Che gli Anunnaki stavano facendo per creare effettivamente il genere umano, per creare una forza lavoro che potesse estrarre l'oro per loro, imparare dei facili ordini ed eseguirli. Aspetta, ma quindi secondo questa leggenda l'origine della razza umana è nel lavoro? È nella schiavitù. Pazzesco. I sumeri infatti sostengono che gli uomini sono nati in schiavitù, in questo senso, e quindi vediamo come ad un certo punto, impiantando uno spermatozoo, come dire, una cellula una cellula feconda maschile Annunaka all'interno di un ovulo invece di Homo erectus. Vabbè, quindi terrestre, e poi fatta incubare all'interno di una Annunaka, quindi aspetta, no, rispiega meglio gentilmente, è un momento centrale questo, stai parlando di un momento chiave dell'evoluzione umana. Esatto, praticamente. Un viene essenzialmente fatto quello che viene fatto a livello di ingegneria genetica anche dall'uomo, a livello primordiale ovviamente in questo momento, cioè si cercano di ibridare due specie e quindi si va avanti per tentativi ovviamente in laboratorio, e poi ad un certo punto si trova, come dire, l'ibrido giusto che funziona, tipo non solo che funziona tipo la pesca noce, ma non solo che funziona, che è fertile, giustamente. Quindi, cioè, precisamente come è avvenuto? Precisamente io non lo so. Però io non c'ero comunque, e se c'ero dormivo. Precisamente è una cosa particolare, però sicuramente è successo come essenzialmente gli esseri umani, nel senso, come allo stesso modo in cui gli esseri umani operano a livello di ingegneria genetica, solo che noi lo facciamo sentendo questa storia, lo facciamo in maniera molto più primitiva e primordiale rispetto invece a quelle che evidentemente dovevano essere le loro capacità, il loro non so. Ok, perché? Perché noi non siamo capaci a questo punto come specie umana di ibridare una, come dire, una specie. Anche io c'è un'obiezione, però. Così, cioè in questo modo. È una roba con folle. La tecnologia tale da poter ibridare la specie umana con la propria, non hanno trovato una tecnologia per estrarre l'oro senza consumare la propria forza lavoro. Questa è un'ottima obiezione, infatti. A cui tu rispondi che? Ma io ti dico che l'avanzamento tecnologico può essere un qualcosa di estremamente variegato. Noi abbiamo in mente solo il nostro esempio storico come esseri umani, ma un'altra specie, un'altra razza che abita un altro pianeta poi probabilmente potrebbe essersi sviluppata in maniera completamente diversa rispetto a noi. In questo senso abbiamo anche dal punto di vista fisico proprio una descrizione di questi Anunnaki. Dov'è questa descrizione? Bene, giusto. Sulle stesse fonti da cui arrivano i racconti, quelli dei Sumeri, esatto. In quelle fonti lì vediamo che gli Anunnaki sono dei giganti, sono enormi. Sono umanoidi e assomigliano a dei medio orientali, enormi però. degli enormi medioevali. Degli enormi. Dei giganteschi Gesù. Sì, qualcosa del genere, dei giganteschi, non so. Gesù era un anunnaco. Gesù era un anunnaco, maestro? Parliamo di questo un attimo. Gesù era sicuramente un Elohim. Ma torniamo ai Sumeri. Torniamo ai Sumeri. Quindi questi Anunnaki vengono in qualche modo dipinti come esseri giganteschi. E infatti alcuni, come Biglino, sostengono che questi stessi Anunnaki sarebbero i Nephilim della Bibbia. Cioè? All'interno dell'Antico Testamento si parla di Nephilim e di Elohim, per l'appunto. Un esponente della razza dei Nephilim, o comunque di ibridazioni tra umani e Nephilim, sarebbe Golia di Davide e Golia, il gigante, per l'appunto. Golia è un Elohim? È un Nephilim. È un Nephilim, cioè un ibrido. È comunque un ibrido tra umano e, diciamo, Elohim in questo caso, se andiamo con la nomenclatura ebraica. Quindi, mettiamolo un po' terra terra, sono cattivi questi Elohim? Cioè ti ibridano per sfruttarti e tu devi parteggiare per Golia, che vuole liberare la sua gente dal despota gigante. Io penso che in questo senso dovremmo... Davide, esatto. In questo senso però penso che dovremmo andare un po' al di là del concetto di bene e male, in quanto la stessa, come dire, superiorità tecnologica, o il semplice fatto che, come dire, puoi... non so, il semplice fatto che si può sostenere che qualcuno ci abbia creato, no? In questo senso ci pone in una condizione di inferiorità, mi sembra. Scusa, però stai mettendo sul piano moralmente superiore chi vince, fondamentalmente. Cioè, se vinci vuol dire che hai ragione. Non penso questo, penso piuttosto che se arrivi prima. In qualche modo. Quindi se vinci. Se la vedi da un punto di vista evoluzionistico, forse sì. Se vinci. È comunque una corsa contro il tempo, da un certo punto di vista. In qualche modo un recupero del darwinismo su scala stellare. Potremmo in qualche dire modo. In qualche modo. Panspermia. Panspermia per noi. Musica, maestro, attacca bene. Attacca bene, maestro. Va bene, allora, quindi abbiamo ancora 5 minuti per concludere questa storia della genesi della specie umana. Vi abbiamo raccontato, facciamo un attimo un breve riepilogo prima dei momenti cardinali con cui andremo a concludere. Nibiru, Anunnaki, bioingegneria tra Anunnaki e Homo erectus, esseri umani. Vabbè, ma questo è un titolo di libero, non è una sintesi. Collega con dei verbi. In questo senso possiamo dire quindi che nasciamo in schiavitù, ma ci liberiamo e ci libriamo allo stesso tempo. Infatti ad un certo punto pare che questi Anunnaki trovano... conveniente accoppiarsi con gli esseri umani e quindi si generano ulteriori ibridi. Ah, boia, direttamente, certo, invece che ibridarsi. Con percentuali diverse di sangue terrestre e sangue anunnaco. Alcuni di questi diventeranno i semidei che popolano i racconti mitologici. Accidenti. Ma scusami, una domanda veloce, ma c'è ancora questo? Mi ricorda un po' il Silmarillion, comunque. Grazie per averlo detto. Apprezzi questo paragone, maestro? Assolutamente, da fan tolkieniano quale sono. Certo, ma c'è ancora il pianeta Nibiru? C'è ancora, nel senso... Cioè c'è là che gira intorno al Sole? Beh, questo devi... scoprirlo. Cercarlo dentro te stesso. Devi chiederlo ai Sumeri. Va bene, però noi sappiamo che 445.000 anni fa si era avvicinato alla Terra a sufficienza. Sì, e tipo circa 200.000 anni fa si sono rotti il cazzo di estrarre l'oro e hanno creato noi. Quanto 200.000 anni fa? Più o meno. La specie umana più o meno è stata... Secondo quella che è questa teoria, che è afferibile totalmente all'interpretazione di questo tipo di fonti, da parte di Zecharia Sitchin, uno studioso olandese che non è stato mai accettato dalla comunità scientifica ed è sempre stato bollato come, cioè, i suoi studi ora, sono sempre stati bollati come pseudoscienza. E noi critichiamo ardentemente tutto ciò? Io penso questo. Noi pluralis maiestati. Sì. Io personalmente penso questo, che quando la scienza si fa dogma diventa tanto pericolosa quanto una religione. Ok, ma parlando velocemente di Zecharia Sitchin, in questo minuto e mezzo che ti resta, ci vuoi dire che... Voglio dire che è stato sicuramente coraggioso a pubblicare quello che ha pubblicato. E... Senti, ma lui ha studiato i Sumeri? Lui ha studiato le fonti proprio, parliamo di quelle che sarebbero le sacre scritture della civiltà sumera, quindi tutto il corpus del Legendarium. E è stato lui l'iniziatore della teoria degli antichi astronauti? Lui ha interpretato una... tavoletta in particolare disegnata che rappresentava il nostro sistema, che rappresenta il nostro sistema solare, e tutta la comunità scientifica la interpreta come un grande punto al centro che sarebbe il Sole e le stelle dietro. Invece lui la interpreta contro tutto il resto del mondo come se fossero i pianeti del sistema solare, e quindi effettivamente diventano 10, compresa la Terra e la Luna, in quel caso. E, che ricordiamo non è un pianeta. Che ricordiamo comunque quindi non è un pianeta. Quindi lui aveva tolto Plutone. No, l'aveva contato. Comunque l'aveva. No, 10, torna perché con Plutone sono 9. Ok. Quindi... Ah no, con la Luna 10, certo. Intanto, devi scalcolare il Sole come pallino. Comunque. Ok, all'interno del conteggio, dai. Accolto. Ok. E praticamente. Vabbè, magari erano 11, sì, sono un cazzo io, non lo so, o 10 o 11, boh. Pseudoscienza. E praticamente questa interpretazione diventa in qualche modo la chiave di lettura per arrivare a Nibiru e al decimo pianeta, per l'appunto. C'è da dire, questa curiosità, che nel resto delle fonti sumere i pianeti vengono rappresentati come 6. Quali fonte dei Sumeri? Sempre. Sì, sempre quelle dei Sumeri. Altre tavolette disegnate. Tavolette, principalmente appunto iconografia e testimonianze di scrittura cuneiforme. Ma e poi perché a un certo punto è finito l'oro? Cioè com'è che è finita questa storia? Ad un certo punto, più che finito l'oro, siamo diventati abbastanza ingestibili, a quanto pare. Cioè si sono troppo evoluti gli esseri umani. Si sono troppo emancipati. E gli Anunnaki che hanno fatto? Hanno sloggiato. Gli Anunnaki ad un certo punto... nel frattempo il pianeta stava andando via, il treno parte, loro devono risaltare su e dicono buona. Esatto, questo. Esatto. E anche il fatto che probabilmente... L'ho scritta io sta leggendo. Ma quanto è durata quindi questa presenza? È durata una più o meno 400.000 anni, una cosa del genere. Beh. No. Meno forse, diciamo 300.000, dai. Ma la cosa ci hanno lasciato per un giro intero del pianeta. Gli hanno... Ma quello era meno al 3600. Probabilmente hanno estratto tutto l'oro che gli serviva. Abbiamo qualche falla. Poche fonti, ma incerte. Va bene, questa era la teoria, come la potremmo definire? Degli antichi astronauti? Degli antichi astronauti, esattamente. E ha diversi riscontri anche all'interno molti di quelle che sono le fonti reperibili in Sud America. Prego, per voi su Radio Wombat. Allora, caro maestro, ora mettiamo un pezzaccio e poi torniamo perché ti voglio proporre, io lo so che te non sai che cos'è, infatti adesso mettiamo un pezzo lungo almeno 4 minuti, così io posso andare a prendere tutti gli strumenti per proporti un esperimento. E una birra. E una birra. Allora, 5 minuti, così ti propongo un bellissimo esperimento, perché qua vogliamo fare scienza, qua a Diretta Radio. Noi, servizio pubblico, ci meritiamo più di quanto si merita la RAI con questa trasmissione, facendo vera questo è un dato di fatto. Scienza. Siamo pronti, 5 minuti di canzone. Maestro, non ti distrai, non guardare il cellulare. Cosa stai per mettere? Vuoi dire qualcos'altro ancora? Sì, vorrei solo dire questo, che il fatto che siamo... nati in schiavitù, bravo, non vuol dire assolutamente niente. Beh, Grande maestro, che pezzaccio ci metti? Adesso due piedi, su. Mettiamo. C'è scritto, vedi. Space Child. Degli UFO. E eccoci di nuovo a chi ci stava già ascoltando, un saluto a chi magari si è collegato su Radio Wombat da internet o dalle AM per le persone brave che hanno la radiolina e possono sintonizzarsi su Radio Wombat sulle frequenze medie. Siamo a Lezioni Universali di Esistenza, siamo con il nostro maestro e stavamo parlando di ibridazioni di specie, esatto, e anelli mancanti dell'evoluzione della razza umana. Un saluto anche a chi ha trasmigrato da Nibiru alla Terra. Un saluto a voi. Ma gli Anunnaki, maestro, ti stanno chiedendo che, con che cosa sono andati via? Abbiamo queste ultime domande prima di concludere. Ok, allora, diciamo che voglio rispondere a questa domanda con una sorta di identikit di quello che è, diciamo, il nostro oggetto di discussione, sì, cioè gli Anunnaki. Ci fanno notare che poi il pianeta madre è lontano dopo tipo 400.000 anni, ma l'abbiamo già fatto notare, ma il maestro ha detto che noi non sappiamo la tecnologia del tempo effettivamente. Cosa aspetta, non ho capito. Cioè che se loro hanno aspettato che il pianeta Nibiru fosse vicino alla Terra per venire sulla Terra, perché poi sono andati via quando cazzo volevano? Posso rispondere? Sì. Pigrizia, vuoi sapere pigrizia? La risposta della comunità pseudoscientifica è pigrizia. Siete così ancorati ai vostri preconcetti che sono non solo borghesi, ma borghesi a un livello planetario, direi, nel senso provinciali, noi provinciali dell'Orsa Minore, no? Cheat. Quindi dicevano, con cosa sono andati via gli Anunnaki, ti chiedevano, prima di che tu ci faccia l'identikit? All'interno dell'identikit illustrerò la risposta. Questo tipo di veicolo che darà una risposta a questa domanda. Via. Nome: Anunnaki in sumero, Nephilim o Elohim in ebraico. Caratteristiche fisiche: umanoidi giganti molto simili ai terrestri mediorientali. Provenienza: Nibiru, sistema solare. Primo avvistamento: circa 200.000 anni fa, il momento stesso in cui ci hanno creato. Veicoli: discoidali, piramidali e a forma di uccello di Horus. Ora non ridete. Non stavamo ridendo. Agenda. Sì, è vero, in effetti devi usare questo coso e sparagli. Agenda. Il microfono del maestro. Bioingegneria e estrazioni minerarie con oro. In oggetto nel Pacifico e al centro dell'Africa. E al centro dell'Africa, abbiamo detto. Consigli per gli acquisti. Amore. Anunnaki 2017. Anunnaki è praticamente un documentario del 2017 girato da Philip Gardiner. Consigli di visione, di approfondimento. Consigli. E ridillo, scusami, ti ho distratto. Anunnaki 2017, Philip Gardiner, è un documentario, vi consiglio la visione. E consiglio anche la visione di Anunnaki del 2014 di Lorenzo Andreaggi. B-movie, tutto nostrano. Bene, molto bene. Squisitamente nostrano. Squisitamente. Allora, prego, se vi abbiamo rivelato e finalmente svelato le origini dell'esistenza della razza umana qui non su Radio Wombat. Ringraziate. Ogni puntata una verità, assieme al maestro Centottani. Non so perché sono qui. Chiediamolo all'Anunnaki. Va bene. Allora, è il momento, in conclusione, come ogni primo mercoledì del mese faremo, di un esperimento pseudoscientifico. Perché mi sembra il caso, visto che parliamo di scienze, di pseudoscienza, anche se oggi ci siamo dilungati molto sull'ufologia, di provare a mettere alla prova tutte le teorie che in giro circolano e a cui magari tu, maestro, darai largo credito. Io mi fido di tutti e non credo a nessuno. Molto bene, è l'approccio giusto. Allora, per proporre un argomento, maestro, ma anche tu, Gege, che sei anche tu ufologa a tuo modo... Cosa ne pensate della memoria dell'acqua? Penso che sia una realtà. Oh, attenzione, si esprime il maestro. Si esprime. Ma cedo subito la parola. Prof, non ho capito la domanda, la puoi ripetere? Sì, mi rendo conto, nemmeno io la sapevo fino a ieri. Poi ho cercato un pochino a caso su internet e ho scoperto che c'è un monte di gente. Ora io non ho tempo di fare l'excursus, ma si parla dall'Ottocento in Francia fino ad arrivare a Luc Montagnier. E a quello giapponese che non mi ricordo. Sì, prego maestro. Dirò solo una cosa in questo senso. Dirò solo una cosa in questo senso. Il pianeta Terra, tutto il pianeta Terra, è concepibile, inquadrabile come un unico sistema vivente, costituito dall'acqua, che ci parassita e ci muove. Ci parassita. Quindi noi ci crediamo profondamente nella predominanza dell'acqua su tutto quanto ha a che fare con l'agire umano, diciamo così. Quant'è la percentuale d'acqua all'interno c'è più aria probabilmente, c'è più vuoto che acqua esistenziale. Stai parlando del mio cervello. Allora, ce n'è un sacco di acqua, giusto maestro? Tipo 80-90. 70% all'interno degli esseri umani. Siamo praticamente sacche di carne più simili a un'anguria che a un un sasso. Va bene, quindi è il momento dell'esperimento. Allora, devo fissare il microfono e iniziare a prendere tutti gli strumenti. Sì, ecco, questi sono tipo i rumorini di quando si cucina in sottofondo. Nella regia Wombat, abbasso addirittura il sottofondo, così perché possiate godere pienamente dei rumori ambientali. Allora, qua sotto ho preparato adesso, in questo momento, sono andato a prendere due bottiglie d'acqua, le prendo. Attenzione, prende due bottiglie di vetro riempite di acqua naturale. Riempite ora dal rubinetto. Due bottiglie identiche. Maestro, toccale pure. Stessa qualcuno dimensione. Qualcuno ti ha visto mentre riempivi queste bottiglie? No, però sono andato ora, erano vuote, sono ritornato. Questo potrebbe compromettere l'esperimento. No, se vuoi Gigi, te le vado a fare riempire adesso per controprova. Se no ci fidiamo che sono buonissime. Per amore nei confronti di chi ascolta, non grazie, allungherò. Grazie. Ma solo io sto pensando, che vogliono farmi bere del piscio. No, stai pensando solo tu. Ok, cosa, ok, perfetto. Sarebbe stato ingegnosamente modificato per essere trasparente, però. In cosa consiste la memoria dell'acqua? Cioè, la teoria è questa, che l'acqua conserva una memoria di quello che le accade, di quello che le viene detto. A livello molecolare, cioè succede che le sue particelle conservano la memoria di quanto le accade. Un trauma, una felicità, qualche cosa di positivo o di negativo, l'acqua lo porta con sé come memoria storica, giusto maestro? Sì, c'è un tipo di legame anche a livello chimico che testimonia questa cosa. E noi questa cosa la vogliamo legame provare debole. Adesso. Esperimento scientifico, pronti via. Allora, ho portato questi due cartellini. Gigi, ti do due cartellini gentilmente. Ci là sono. C'hai un pennarello davanti a sì. te. Da una parte e dall'altra di ho uno un pennarello. Dei due cartellini. Sì, mentre io prendo lo scotch. Io ho delle bottiglie d'acqua in mano. Sì, da una parte a tenerle, dall'altra. Ci dovresti scrivere su uno odio e sull'altro dentro? Sopra. Sopra. Cioè esternamente. Sopra. Così odio. Che lo veda la bottiglia, perché poi l'attaccheremo sulla bottiglia d'acqua. Odio su una. Sia da una parte sia dall'altra. Mi accingo a scrivere odio. Prego, sì. Sentiamo anche il rumore della penna. Io continuo ad avere due bottiglie d'acqua in mano. Odio. Due volte anche di là. Mi accingo a scrivere secondamente. No, odio. Qua ci scriviamo amore invece su quell'altro. Sbagliato. Su uno amore, sull'altro odio. Anche dall'altro lato, però, per favore. Sì? Prego. Grazie. Quindi abbiamo scritto amore, amore. E sull'altro invece odio e odio. Maestro, puoi confermare che abbiamo appena fatto tutto ciò? No. Ok, l'abbiamo fatto lo stesso. Ci vuole boicottare. Adesso cosa sta per succedere? Ci serve lo scotch che ho perso, eccolo. E dovremo attaccare sulle bottiglie d'acqua questi due cartellini. Sono due bottiglie d'acqua identiche, riempite con la stessa acqua dello stesso rubinetto, però su una ci attacchiamo il cartellino con scritto odio, sull'altra ci attacchiamo il cartellino con scritto amore. Noi vogliamo provare la memoria dell'acqua, stiamo facendo un esperimento molto scientifico, senza sottofondo, affinché godiate pienamente dei rumori ambientali. ASMR. Qualcuno ti ha scritto qualcosa, però ora noi siamo distratti. Vai, maestro che non sta facendo nulla, legga. Mi piace tantissimo questo. Ok, facile parlare della memoria dell'acqua. E la memoria del vino? Va bene, ok, tu sei un grande. Sarà per un prossimo esperimento nel caso in cui questo funziona. O un grandu. Allora, hanno un sesso gli Anunnaki, maestro? A quanto pare sì, perché le divinità che compongono il Pantheon degli Anunnaki, cioè il Pantheon sumero riferito agli Anunnaki, sono sia maschili che femminili. È stato applicato il cartellino che ha scritto odio. Odio l'abbiamo messo. Ora siamo per mettere anche. Guarda, ti do il cartellino per amore. Comunque, siamo molto vicini alla memoria del vino. Vorrei ritornare sulla memoria del vino. Allora, la memoria del vino fondamentalmente non c'è. Allora, maestro, non ti distrarre. Allora, ho preso un pacco però di riso. Però nel vino c'è una parte d'acqua. Ho preso un pacco di riso della Hop, va bene? Vedi, è nuovo. Gigi, lo vedi anche tu? Lo sto per lo vedo, lo vedo. Sì, riso originario. Riso originario, quello per essere in meno. Tema. Lo sto aprendo con un coltello. piano. Non facevo così. Sì, faceva stranide. Lo sto prendo. Ne verso un pochino qua dentro la scatola a cazzo. Avete sentito il rumore? Che se non state capendo cosa sta succedendo, non siete gli unici. Stiamo cucinando un risotto nella regia di Roma. Allora, adesso abbiamo... Maestro, ricapitoliamo la situazione. Abbiamo due bottiglie davanti a te. Su una c'è scritto odio e sull'altra c'è scritto amore. Ma io sto prendendo sul serio questa cosa di sogni ambientali. Sì, seriamente, è un esperimento. Allora, adesso maestro, io ti do questo cartone con del riso appena Sì, lo sto dentro. Per prendere, lo prendo, l'ho afferrato. Vorrei che ne versassi una quantità analoga nella bottiglia con scritto odio. Analoga, in posso prendere, c'è un errore equivalente. Altissimo. Posso prendere in mano la bottiglia? Non abbiamo molto tempo, maestro, sta per finire la trasmissione, procediamo. Tanto non ci sono sottofondi, lascia pure stare il cavetto. Non ci sta andando niente di base, è proprio... Faccio così. Un po', metticene un po'. Qui c'è Vai. Un errore di misurazione altissimo. A occhio, una manciatina. Fallo con la mano. Ah, con la mano ok. Un po' poco, mettiamo un po' di più. Oddio cane. Stanno procedendo ad infilare del riso in una bottiglia di vetro. Un altro po', maestro. E fallo anche con quell'altra, circa la stessa quantità. Non abbiamo molto tempo, maestro, deve Questo essere esperimento rapido. È falsato. No, per adesso è tutto perfetto. Sono due bottiglie di vetro identiche, riempite con la stessa acqua dello stesso rubinetto. Su una ci abbiamo attaccato un cartellino con scritto odio che trasmette sia fuori che dentro. Quindi l'acqua può vedere la scritta odio, così come noi possiamo vedere la scritta Era odio. Era sicuramente un altro modo per fare questo. Sì, cioè, molto più semplice. Sull'altro c'è scritto amore e ci abbiamo messo... Cosa devo fare? Il riso, ancora riso. Dove? Dentro, fai equivalente. Ci sei equivalente? Bah, penso di sì. Controlla bene, GG, equivalente? È tutto sul tavolo. Sì, poi lo raccogliamo. Ma dentro alle bottiglie è uguale? Sì, sì. Sì. Si potrebbe sì. dire di sì. Allora, io chiedo la gentilezza adesso a GG di portare via la bottiglia con scritto amore affinché non senta cosa sta per succedere. La bottiglia non deve sentire. No. La porto fuori dalla stanza. Sì, grazie. Secondo me comunque quello scritto dice un po' meno. Metti un'altra manciatina, maestro. Ma io vorrei far notare a Mario che... No, siamo fine, maestro, non ti distrarre, è un momento di esperimento. L'acqua Grazie, non, cioè, puoi chiudere la porta, non ci deve sentire. Sì, è proprio quello che stiamo sperimentando, invece. Allora, l'esperimento scientifico funziona in questo modo. In realtà non siamo i primi a farlo, l'hanno fatto in molti. Noi lo stiamo però provando per voi, per comprovare che sia effettivamente così. Cosa stiamo per fare? Abbiamo davanti a noi una bottiglia con scritto odio, ci abbiamo messo dentro del riso. Quella con scritto amore l'abbiamo messa fuori. Adesso tutti e tre insieme, maestro sei distratto? No, sto capendo. Dobbiamo insultare l'acqua. Okay. Adesso funziona così l'esperimento. Ora dobbiamo dire brutte parole all'acqua. Va bene. Tutti e tre insieme, va bene? Okay. E maestro, te però l'acqua, c'è anche questa cosa, alcuni sostengono che va mossa mentre succede questa cosa. Sì, è Non si muove emotivamente dai nostri insulti. La bottiglia, va Vai, bene? Ok. No, però mettiela là davanti così che ci sente bene. Sì, ora te la verso sul mixer così, la muovi in questa maniera, va bene? Okay. E noi ora le diciamo cose brutte. Vai. Va bene? Vai. Cattiva acqua! Bruttissima! Senza urlare perché sennò non sentiamo niente, però abbassiamo il main, va bene? Cattiva acqua! Brutta, puzzolente! Sinalode, un'acquitrina! Un'acqua limacciosa! Fa schifo! Torbida! Padule! Sporca! Torbida! Puzzo schiatta! Fiumiciattolo! Cattivissima! Orrenda! Brutta! Se lo scarico delle sogne. Fai schifo acqua. Okay. Brutta. Benissimo. Adesso la tappiamo. Questo era per gli amanti del vino. Prego, maestro. Adesso stiamo tappando l'acqua. Gigi, adesso ti chiederei gentilmente di portarla fuori questa acqua, perché sennò le cuffie mi vanno via, e prendere quell'altra con scritto mi amore. Mi accingo ad uscire. Grazie, Gigi. Stiamo per finire l'esperimento, lo so, è un po' lungo, però lo vogliamo far vedere per intero affinché non ci siano... Cosa ci aspettiamo lo diremo appena avremo finito. Questo è un esperimento scientifico che stiamo facendo in diretta su Radio Wombat. Grazie. Adesso abbiamo la bottiglia con scritto maestro... Amore. Tu maestro credi nella memoria dell'acqua? Pensavo mi stessi chiedendo se credo nell'amore. No, ti credo se credi nella memoria dell'acqua. Sì, certo. Adesso dobbiamo invece dire parole d'amore per questa bottiglia. Ok. Lui la deve sempre... Aspetta, cosa c'è che non va? Hai il microfono spento? Sì. Successo qualcosa. Pronto, Sassa, ecco. Deve sempre agitare l'acqua. Sì, maestro, gentilmente. Sì, ok, la agiterò. Allora, parole d'amore per questa bottiglia adesso. Ok. Bella acqua, brava. Acqua, sei la cosa più limpida e cristallina che i nostri occhi possano vedere in questo momento. Sei la fonte della vita dolce, e della salvezza. Acqua azzurra, acqua fonte chiara, di monte. Dissetante, potabile, fresca, monte di fonte. Adorabile. Amorevole acqua, acqua limpida e chiara. Rinfrescante. Freschissima e amabile acqua. Ti vogliamo molto salvezza. Bene. Salvezza. Nei giorni di sole acuto. Cara adorabile acqua, sei molto bella e molto chiara. Brava acqua. Brava acqua. Molto bene, adesso chiudiamo anche questa bottiglia. Grazie Gigè. Qualcuno ha scritto qualcosa? Gigè che insulta Spottino subito, sì. Abbiamo registrato tutto, infatti, dopo lo facciamo. Ci mancherebbe altro. Bene, ora abbiamo messo entrambe le bottiglie fuori. Quello che sta per succedere è questo. Mettiamo la base, maestro. Mettiamo una base, per certo. Favore. Ma no, ma devo tutte e due fuori o tutte e due fuori? Fuori, poi ci pensiamo dopo. Le sistemiamo in un angolo buio. Una a caso. E via. Bene, bene. E quindi stiamo per concludere. Ecco, tornata Gigè. Caro maestro, abbiamo messo fuori le due bottiglie d'acqua. Stiamo per concludere la prima puntata di Lezioni Universali di Esistenza. Cosa abbiamo appena fatto? Abbiamo fatto un esperimento sulla memoria dell'acqua. Abbiamo preso due bottiglie d'acqua. Ci abbiamo messo del riso. Abbiamo mangiato una da vuota. Una abbiamo insultata e l'altra l'abbiamo... L'esperimento prevede... Le vedremo fra un mese. Le riprenderemo fra un mese. Fra un mese? Richiede un mese di tempo questo esperimento. Non me l'aspettavo. Ma questo non ci sta bene. Ci aspetti. Ora lo mettiamo in un angolo qua nella regia. Ci scriviamo esperimento scientifico nessun tocchi. Ci rivediamo il primo mercoledì di ottobre, di novembre. E vedremo il primo mercoledì di novembre cosa è successo al riso. Quello che sostengono la grande comunità degli scienziati pseudoscientifici contro la grande comunità degli scienziati veri è che il riso nell'acqua con scritto odio sarà deteriorato, a differenza dell'acqua, di quello che succederà al riso dentro la bottiglia con l'acqua con scritto amore. Posso fare un pronostico diverso? Sì, sì. Più realistico. Tra 15 giorni cade una bomba atomica e il tuo esperimento fallisce. Va bene, se non succede questa cosa, facciamo che noi ci rivediamo. Posso fare un pronostico ancora più realistico? Sì, certo. Qualcuno della tana del Wombat leverà di mezzo le bottiglie. No, perché io ho quell'altro cartellino su cui ora ci scrivo esperimento scientifico non toccare, quindi sono sicurissimo che nessuno lo toccherà per il grande rispetto della scienza che c'è in tutta Radio Wombat. Ci ritroveremo quindi il primo mercoledì di novembre per vedere cosa effettivamente è successo. Noi ci aspettiamo che l'acqua, dove c'è scritto odio, corromperà e deteriorerà maggiormente il riso dell'acqua con scritto amore, proprio per la memoria dell'acqua. Vedremo se questa cosa è vera e poi faremo un nuovo esperimento mercoledì. Poi faremo in modo di pubblicare in qualche modo una foto. Su Nature, anche sul sito di Wombat. Sì, invece... Per le persone che sono rimaste lì ad aspettare il risultato. Sì, è vero, lo faremo. Per quei... L'amore della scienza, per quei... le testimonianze. Per quei pochi che ancora credono nel metodo scientifico e nella democrazia. Sì. Ogni primo mercoledì del mese è un esperimento scientifico, invece ogni terzo mercoledì del mese, e questo sarà fra due settimane, maestro, che rubrica ci porterai? Porteremo ancora una volta alla vostra attenzione un nuovo identikit. E ogni volta ci sarà un identikit diverso di una razza aliena, perché noi non è che non siamo soli, no, è che proprio c'è un sacco di... C'è sovrabbondanza. Esatto, c'è un sacco di gente là fuori che aspetta soltanto un incontro ravvicinato del quinto tipo. Qual è il quinto tipo? Lo vogliamo lo sapremo poi. Poi è meglio, sono poi. Quasi sicuro che dirò sia meglio. Dirò solo sesso. Va bene, quindi a fra due mercoledì con la seconda puntata di Lezioni Universali di Esistenza. Iniziate in ritardo, è venuto grazie come è venuta. Grazie per essere state con grazie noi fino alla fine, chi è rimasto fino alla fine. Grazie per l'ascolto, il supporto e viva il Wombat. A mercoledì prossimo con Gigè, col maestro Centottani. A mercoledì. E continuate a non avere paura. Fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger.